brillano le corde d'argento, di rame o di bronzo, la musica prende colore. Ma senti sto blues, se il lavoro va male ti senti impagato, fai lo sporco impiegato, gente ignorante che non capisce niente. Chiedi perché mi sta sopra di me. Nel buio brillano le corde d'argento, di rame o di bronzo, la musica prende colore. Senti sto blues.